This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buon pomeriggio a tutti, siamo sempre in diretta su Radio Città del Capo e questo era un gruppo che magari era ancora meno conosciuto di quelli che normalmente vi proposiamo. Beh, intanto do il buon pomeriggio a voi e do buon pomeriggio anche a Rosario che è qua in studio con me oggi pomeriggio. Ciao Babe, ciao le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, oggi parliamo un po' di periferia, dell'impero, insomma desertica, è una visuale abbastanza desertica in questa California del nord, e da dove vengono appunto i Teen White Rope, gruppo di Davis, vicino Sacramento, piccola cittadina famosa soltanto per l'università, dove vengono questi quattro tipi, insomma, tipici americani, abbastanza vitaminizzati, belle facce, insomma, forse anche di origine teutonica, a vedere le facce, insomma. E anche i cognomi. E anche i cognomi, sì, infatti il cantante e chitarrista si chiama Guy Kaiser, scritto con la Y, quindi non si sa la pronuncia esatta, però comunque noi la buttiamo di Kaiser. Questa volta non parliamo di outsider, per una volta tanto. No, sicuramente no, vengono da una tradizione molto famosa, insomma quella desertica, il rock desertico statunitense, che un po' i critici ci hanno maneggiato abbastanza. Parte da forse dalla American Music Club di Mark Hatzell e quant'altro, prosegue comunque con Tim White Rob, poi abbiamo anche, che poi affronteremo magari nelle prossime puntate, i Meat Puppets, Green on Red sì, e tanti altri. E se vogliamo proprio partire dalle origini, sicuramente Rocky Erickson e i 13 Floor Elevator, infatti loro parteciparono anche a un album tributo al buon Rocky Erickson. Già, prima parlavamo di rock del deserto, ma cosa diavolo vuol dire rock del deserto? Beh, sicuramente si accomunava molto una certa visione lisergica, insomma, aiutata un po' da sostanze psicotiche, e poi comunque, sì, il deserto era là vicino, era un po' il modo per anche per comporre. Non era così vicino, in realtà Davis era tra Sacramento e San Francisco, più vicino a Sacramento, quindi il deserto della California era abbastanza distante. Come dicevamo, una cittadina piccola, una piccola cittadina, 64.000 abitanti, quindi veramente piccola, ma con un numero spropositato di studenti, molto peggio che Bologna, dove bene o male uno su sette è uno studente, che è già un numero molto elevato. Beh, a Davis c'erano qualcosa come 20-25 mila studenti, che sono veramente tantissimi. Sì, però comunque non era difficile andare poi nel deserto, alla fine erano sempre quelle 2 ore di macchina, per un americano alla fine con la benzina, che insomma il costo è relativo, fare 2 ore di macchina per andare a incontrare il deserto e appunto... e avere un modo per anche per comporre, per trovarsi insomma in un posto che dà molte sensazioni. Ricordo pure l'intervista al cantante Meat Puppets, che dicevano loro andavano per prima di fare un disco, si facevano quelle 2 settimanelle nel deserto e poi tornavano a comporre, insomma a registrare. Quindi dà molto l'idea di un aiuto che dava agli artisti di quel posto il deserto, insomma. Certain people will take doses of pleasure till they die. That's what an alien would say. Oh, spirit alien. No, that would be ridiculous. Oh, spirit alien now. Have a receipt, says Texas, and I kind of like the feel of cool water with no place left to go. Convinced that you're the one. Sempre This Is Not An Exit, siete sempre su Radio Città del Capo. Stiamo parlando di questi giovani psichedelici che venivano dalla cittadina di Davis. Davis ci erano trovati poi molti di loro, perché Davis è una cittadina con la UC Davis, l'università della California, una delle università statali californiane. Il cantante però veniva da Austin, quindi sì, il deserto lo conosceva, ma il deserto di cui parlava probabilmente era anche qualcosa di inconscio o comunque introspettivo. Non era facilissimo stare nel mondo degli anni 80 e suonare questo tipo di musica, erano abbastanza fuori moda, è vero, c'era stato il Paisley Underground, abbiamo citato prima anche gli American Music Club, ma erano comunque gruppi che non erano di moda e neanche facevano hardcore, neanche facevano noise, insomma era veramente una nicchia, bisognava essere cucciuti, avere appunto un deserto interiore oppure vivere in un deserto culturale, anche se, ripetiamo, non erano degli emarginati, frequentavano appunto l'università e avevano il privilegio, cosa rara probabilmente in una cittadina così piccola, di vivere in una casa di studenti che spesso veniva trasformata in un luogo per tenere concerti. Cominciò così per caso e poi la casa divenne interessante, divenne grande, fu ribattezzata Pirate House. E finché i vicini, come sempre succede, anche qua a Bologna i casi sono stati abbastanza eclatanti ultimamente, finché appunto i vicini non si misero di mezzo, praticamente i Teen White Ropes si formarono e cominciarono a muovere i primi passi in quella casa, che divenne praticamente una casa concerto occupata, e poi cominciarono a invitare gruppi anche dall'estero, oppure in tour americano o gruppi americani limitrofi e non solo, insomma. Divenne qualcosa che per non tutti, insomma, non tutti i 20.000 studenti di Davis andavano lì solo ed esclusivamente per studiare. Qualcuno giocava a football e qualcuno invece voleva, appunto, magari sentirsi un po' di musica e magari non musica plastificata, fatta con i sintetizzatori. Ricordo che gli anni 80 sono stati la musica per antonomasia era quella fatta con i synth, musica molto plastificata, musica che doveva essere bella, felice. Beh, i testi e le musiche dei Teen White Rope non erano certo musiche allegre. We'll be right back. skies. Parlando del nome del gruppo, La sottile linea bianca, il titolo è una frase usata nel libro di William Burroughs, Il pasto nudo, e quindi riferimenti sicuramente alla letteratura. Per quanto poi riguarda i testi, diciamo che a un primo momento, avendo loro il deserto come un mero afflatto ideologico, i testi sono folli e visionari. Poi in un secondo momento si passa a tematiche più esistenziali, quali l'amicizia e la vecchiaia. E a livello musicale, insomma, i Teen Wet Rob passano, insomma, per due anime. Un po' il chitarrista Kaiser legato molto al country, infatti il suo film preferito era quello di Sergio Leone, c'era una volta il West, insomma, anche riferimenti cinematografici. Invece per quanto riguarda il bassista Kunkel, o Kunkel come dir si voglia, era più legato a un certo suono punk, lui fan di vecchia epoca, di vecchia data dei Ramones, addirittura dei Sex Pistols, e questo si sente nelle sonorità dei Teen White Rope, appunto, fra psichedelia, country, ma anche raga, e insomma un gruppo davvero per certi versi seminale per quanto riguarda il genere country psych, ecco. E, cosa vogliamo aggiungere altro per quanto riguarda le sonorità, Babe? Beh, che comunque riflettevano appunto magari un deserto che era a questo punto interiore, non è solo una questione di pazzia, non era l'unica forza trascinante del gruppo. I testi erano importanti, erano sicuramente introspettivi. Quando esordirono l'esordio nel 85 con Exploring the Axis, ok, l'hardcore aveva perso tanta della sua forza trascinante, ma le tematiche sociali erano comunque molto molto importanti, soprattutto nella California e soprattutto nei college che vedevano suonare tutti questi gruppi. Non deve essere stato facile per loro trovare un contratto con la Frontier Records in quegli anni, quando delle due l'una, o facevi college rock o facevi hardcore. E loro invece erano veramente degli outsiders in mezzo a degli outsider, parlando appunto di colline, iceberg, stelle, pianeti. E Kaiser stesso rilasciava interviste dove dichiarava che desert rock per lui non significava niente, nonostante la sua nascita nel bel mezzo di Austin, del Texas, ad Austin. Appunto, per lui era qualcosa che rifletteva la sua condizione di esule in patria o qualcosa del genere. Light meeting in the skies. So do boxes of cigarettes and over hours wasted in the fog. Be where the women call you things, where men sniff you out like dogs. Only just that once you told me you don't like men who treat you like dirt. And sticky drugs intended to seduce, which travel deep and cause you hurt. Wonder what would happen if you learned to speak of your contempt. Instead you celebrate your face by lending it to each of them. Redneck in me wants to prove the college boys scared to move. The homemaker has quit his job. The nihilist has found his God. A carpenter who takes an axe, a moth who burrows into wax. A chain between you and the ape, the missing link is Jonah. Beh, per farvi capire quanto i Teen White Rope fossero fuori dai giochi, fuori dal tempo anche forse, sarebbe sufficiente dire che dopo questo album che si chiamava In the Spanish Cave realizzano un EP, si chiama The Red Sun, dove vanno a ripescare, magari anticipando quello che poi molti gruppi di Seattle avrebbero fatto pochi anni dopo, nello stesso periodo, siamo nell'88, ricordo. Insomma, in un ambito prettamente futurista, dove la house, la techno, l'hip hop facevano da padroni, loro vanno a ripescare pezzi di Lee Hazelwood, pezzi di compilation degli anni 50-60 di praticamente di musica country western, pezzi di Jim Pitney, che era un cantautore inglese che aveva lavorato tantissimo anche in Italia, ma aveva lavorato per, come compositore per Sanremo, insomma. Beh, vabbè, i riferimenti, adesso mi dai spunto anche per ricordare che a proposito del grunge, anche Kurt Cobain al MTV Unplugged dei Nirvana volle sul palco i due componenti dei fratelli dei Meat Puppets, quindi comunque anche il grunge si rifaceva un po' a questo rock desertico, sia di Teen White Rope che Meat Puppets, appunto. E poi comunque i riferimenti, sì, sono cinematografici e letterari sicuramente di questo gruppo, e loro fanno anche citano, insomma, in una canzone proprio il fatto che ci stanno testate giornalistiche che fanno la guerra a pompare il gruppo privilegiato, no? A scapito subito poi insomma di questi gruppi che però insomma erano lasciati ai margini, anche anzi specialmente dal giornalismo dell'epoca, insomma giornalismo di quello più venduto, insomma quello più mainstream, quello più patinato di giornalismo appunto musicale. E insomma un gruppo che davvero è stato molto bistrattato, anche perché forse erano un po' troppo in anticipo con i tempi. La spinta futuristica di vendere qualcosa di nuovo per le testate giornalistiche e per le etichette era ancora molto forte. Il sì. Barile non era ancora alla fine, insomma. No, però ha dato merito, insomma, a un personaggio come Kurt Cobain, che comunque non si è mai dimenticato il passato, insomma, ecco. Ha dato merito all'artista, sicuramente. When you move bar to bar with people's hands in every car. Make little guns to put you down, save you for this little town. Beh, siamo quasi in chiusura anche per questa puntata. Team White Rope qui a This Is Not An Exit. Abbiamo ripescato, come al nostro solito, qualcosa di abbastanza sconosciuto, molto sconosciuto, diciamolo tutta. Forse anche per loro stessa missione, non so quanto abbiano battagliato per avere un posto al sole. Beh, gruppi come Calexico poi negli anni 90 sì, hanno, Built to Spill forse hanno mietuto sì, i successi che loro hanno raccolto, quello che loro hanno seminato. Però c'è pure da dire che insomma le registrazioni dei dischi non è che erano, insomma, erano fatte un po' in economia, insomma, e questo ha influito pure anche nelle vendite commerciali, insomma, hanno venduto poco anche per questo motivo, suoni abbastanza, insomma, primitivi per certi versi. I primi lavori infatti peccano di questo. Dopo, insomma, negli anni 90 hanno un po' cambiato, come dicevi te, Babe, appunto, si è visto anche nel lavoro di Calexico, però insomma i primi lavori peccano di questo ed è un peccato, perché magari poi rimasterizzare certe cose avrebbero avuto un suono più, no? Anche più rivendibile. Ecco. Siamo in epoca di elettromania, no? Sì, sicuramente, loro avrebbero potuto comunque avere un altro diverso, cioè un diverso. Chissà che non si riformino anch'essi. E magari rimasterizzano i primi lavori, che insomma una ripulita ci vorrebbe. Ma d'altronde, se già alla fine degli anni 80, nel periodo della nostra osservazione, magari la spinta appunto propulsiva sì, di gruppo musica nuova, nuove idee, stava andando a calare, in questi anni è ancora più forte. Erano lo-fi senza volerlo, insomma, per certi versi. Sì, beh, la bassa fedeltà era in quegli anni era reale. Però c'erano gruppi che magari non ci pensavano, non lo facevano apposta. No, erano costretti, perché erano, si registrava su un nastro e pagavi, il nastro costava, non magari, c'era sì, l'hard disk recording. Non era un marchio di fabbrica per loro, sicuramente. Forse quelli degli anni 90, sì, qualcuno voleva il lo-fi proprio come marchio di fabbrica impresso, ma non certo il caso dei nostri. Va bene, allora a risentirci sabato prossimo. Sempre alle 15.40 più o meno, dopo il TG di Popolare Network. Che adesso passiamo la palla a quelli di If the Kids Are United. Noi saremo sempre qui a proporvi qualcosa del periodo 88-93 a This Is Not an Exit. Intanto finiamo con The Thin White Rope dal loro EP The Red Sun. Ciao. We'll be right back. hear the rain coming down, makes me sad and blue. 'Twas on a rainy night like this that Flo said we were through. I told her how I loved her and begged her not to go. Another man had changed her mind, so I said goodbye to Flo. At night he came and took my Flo away in the town. I knew I had to find this man and ride to gun him down. I think about the thing I'd done, know it was. Tonight, my heart is filled with